316. Polpettone di carne cruda alla fiorentina. Prendete mezzo chilogrammo senza osso di carne magra di vitella, nettatela dalle pellettiche e dalle callosità e prima con un coltello a colpo, poi con la lunetta tritatela fine, insieme con una fetta di prosciutto grasso e magro. Conditela con poco sale, pepe e spezie. Aggiungete un uovo, mescolate bene e con le mani bagnate formatene una palla e infarinatela. Fate un battutino con poca cipolla, quanto una noce, prezzemolo, sedano e carota, mettetelo al fuoco con un pezzetto di burro e quando avrà preso colore gettate dentro il polpettone, rosolatelo da tutte le parti e poi versate nel recipiente mezzo bicchiere abbondante d'acqua in cui avrete stemperata mezza cucchiaiata di farina. Copritelo e fatelo bollire a lentissimo fuoco, badando che non si attacchi. Quando lo servite, col suo intinto denso all'intorno, strizzategli sopra mezzo limone. Se lo volete alla piemontese, altro non resta a fare che collocare nel centro della palla, quando la formate, un uovo sodo sgusciato, il quale serve a dar bellezza al polpettone quando si taglia a fette. Non è piatto da disprezzarsi.